TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Prima seduta del 2026 per il Consiglio regionale, riunitosi questa mattina con all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge 65 che introduce e modifica la legge regionale in materia di sostegno all'acquisto dei carburanti, ma si è finito per discutere sulla proroga per i medici pensionati della possibilità di svolgere la funzione di sostituzione dei medici di medicina generale sul territorio. 8 sanitari indagati dalla procura di Pordenone nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato, figlio di una coppia di Fiume Veneto, deceduto sabato scorso all'ospedale di Porto Gruaro. Continua il trasferimento dei reparti e dei pazienti nel nuovo ospedale di Pordenone. Questa mattina è stata la volta della neurologia. Arriverà nei prossimi giorni la decisione della consulta sul nodo del diritto di difesa e i costi per le consulenze tecniche che i legali degli imputati del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, nominati d'ufficio, hanno chiesto di sciogliere. Non riguarda solo il porto vecchio di Trieste il fenomeno dei tanti migranti accampati in cerca di un riparo temporaneo in attesa di ottenere la domanda di asilo, ma negli ultimi tempi anche a Udine, nell'ex caserma Cavarzerani, hanno cominciato a insediarsi gruppi di persone in attesa di accoglienza. È durata poco più di mezz'ora al Tribunale di Trieste la prima udienza sulla vertenza intentata per condotta antisindacale dal sindacato Fesica Confsal nei confronti della cooperativa che gestisce i servizi nei musei civici di Trieste. Buon pomeriggio dal giornale radio del Friuli Venezia Giulia e in questo caso da Giorgio Beers e Daniele Lettic che condurranno questa seconda edizione del giornale. Sono le 12:31 minuti, cominciamo con la politica e con la pagina amministrativa, perché oggi prima seduta del 2026 per il Consiglio regionale che si è riunito questa mattina con all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge 65 che introduce modifiche alla legge regionale in materia di sostegno all'acquisto dei carburanti. Questo era il programma, ma in realtà si è finito per discutere della proroga per i medici pensionati della possibilità di svolgere la funzione di sostituzione dei medici di medicina generale sul territorio. Si doveva approvare una norma centrata sui carburanti oggi in Consiglio regionale, invece in fase di scrittura un emendamento che, da quello che è stato annunciato, proroga per i medici pensionati la possibilità di svolgere la funzione di sostituzione dei medici di medicina generale sul territorio. Affinché l'emendamento potesse essere ammesso era necessaria l'unanimità dell'Aula, dal momento che la materia della sanità nulla ha a che vedere con quella dei carburanti. Il centro-sinistra si è riunito per discuterne dopo un appello della maggioranza in tal senso, un acceso confronto dal cui è venuto fuori un via libera all'emendamento per senso di responsabilità, seppur al denti stretti. Massimo Rituzzo di Patto per l'Autonomia, uno dei movimenti della minoranza dell'opposizione, ha criticato la giunta per essere venuto a conoscenza dell'emendamento leggendo i giornali questa mattina, alludendo anche a presunte frizioni tra l'assessore alla salute Riccardo Riccardi e il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, scontro smentito dallo stesso Riccardi perché ha detto lui gioca in Serie A facendo riferimento a Ciriani, io in Serie B. È proprio di ieri la notizia divulgata dallo stesso ministro Ciriani la possibilità per i medici dipendenti di rimanere in corsia fino ai 72 anni dagli attuali 70, un emendamento che sarà presentato nella legge conosciuta come mille proroghe. In questo momento sono in corso le interrogazioni e risposte immediate in aula con toni accesi proprio sulla sanità. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora passiamo alla cronaca. Sono 8 i sanitari indagati dalla procura di Pordenone nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato, figlio di una coppia di Fiume Veneto, che è deceduto sabato scorso all'ospedale di Porto Gruaro. Sono stati iscritti nel registro degli indagati in vista dell'autopsia, un accertamento tecnico irripetibile in programma domani, consentendo quindi loro di nominare difensori e consulenti. L'esame autoptico dovrà chiarire le cause del decesso avvenuto in sala parto. Il padre del neonato aveva presentato un esposto in questura a Pordenone, consegnando la documentazione relativa alla gravidanza, comprese visite ed ecografie effettuate anche in regime privato. Alla coppia non sarebbero mai state segnalate sofferenze fetali significative, anche la famiglia potrà nominare un proprio consulente, i periti dovranno valutare se dagli accertamenti prenatali emergeranno elementi tali da chiedere diverse scelte cliniche, se durante il travaglio o il parto vi siano state eventuali omissioni o condotte rilevanti. E a Pordenone continua il trasferimento dei reparti e dei pazienti nel nuovo ospedale. Questa mattina è stata la volta della neurologia. I trasferimenti sono iniziati questa mattina alle 8 e sono in via di conclusione. Questa è la terza tappa del trasloco di reparti dal vecchio al nuovo ospedale. Dopo le medicine e il pronto soccorso a dicembre, questa mattina è stata la volta del reparto di neurologia e riabilitazione. Passaggio avvenuto per il momento senza criticità. La stroke unit, unità semi-intensiva dedicata alle patologie in fase acuta, è stata la prima a spostarsi. La nuova neurologia passa da 24 a 27 posti letto, mentre la stroke unit da 7 a 6. Il prossimo reparto a spostarsi da cronoprogramma sarà il 29 gennaio la senologia. Il trasloco completo dell'ospedale dovrebbe concludersi entro l'estate di quest'anno. Alle 13 i professionisti incontreranno la stampa per fare il punto sul trasferimento di questa mattina. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Cambiamo argomento, arriverà nei prossimi giorni la decisione della consulta sul nodo del diritto di difesa e i costi per le consulenze tecniche che i legali degli imputati del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, tutti nominati d'ufficio, hanno chiesto di sciogliere. Nel ricorso i giudici di Piazzale Clodio hanno ritenuto in sostanza la questione posta dai difensori non manifestamente infondata e rilevante ai fini della definizione del giudizio. Caro Giulio, sarebbero 38 le parole di Paola Defendi per ricordare suo figlio Giulio Regeni oggi, nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo compleanno, il suo post sui social, come fa ormai ogni 15 gennaio da 10 anni, da quando Giulio non c'è più, richiama la richiesta di verità e giustizia che ancora sta aspettando. Quest'anno nel post fa riferimento anche al film Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, diretto da Simone Mainetti, che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro, le torture e la morte del ricercatore al Cairo nel 2016. E che la vede protagonista insieme al marito Claudio a raccontare in prima persona la storia di Giulio. Il film sarà proiettato in anteprima il 25 gennaio nella sua Fiumicello e nei cinema il 2, 3 e 4 febbraio. Sul fronte giudiziario intanto è attesa nei prossimi giorni la decisione della consulta sulla questione di costituzionalità sollevata dai difensori d'ufficio dei 4007 egiziani imputati e accusati di aver rapito, torturato e ucciso il ricercatore, questione che riguarda il diritto di difesa dei 4 ufficiali processati in contumacia perché l'Egitto si è sempre rifiutato di fornire il loro indirizzo e di collaborare con la giustizia italiana, un nuovo ostacolo che ha già fatto slittare i tempi della sentenza e che potrebbe però determinare sorti e tempi dello stesso procedimento. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, 2 incendi di mansarde si sono verificati tra la serata di ieri e la notte in provincia di Udine, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Il primo intorno alle 21 ad Adegliacco, in cui sono andate a fuoco delle masserizie. L'unico abitante è rimasto illeso ed è ispitato da alcuni parenti. Il secondo rogo attorno alle 3 di notte a Reana del Royale, in un fabbricato con tetto in legno. Anche in questo caso l'unico abitante è stato sfollato e ospitato da parenti. Tutte e due le abitazioni sono ancora non praticabili. Non riguarda solo il Porto Vecchio di Trieste il fenomeno di tanti migranti accampati in cerca di un riparo temporaneo in attesa di ottenere la formalizzazione della domanda di asilo, ma negli ultimi tempi anche a Udine, nella ex caserma Cavazzerani, hanno cominciato a insediarsi gruppi di persone in attesa di accoglienza. Burocrazia come un muro per i richiedenti asilo in fila davanti alla questura di Udine. Sono quasi tutti afghani, migranti che non riescono a presentare la domanda di protezione internazionale necessaria per iniziare il percorso della richiesta di asilo e ad entrare nel sistema di accoglienza. Oggi, dopo 2 settimane di tentativi, in 3 tra i 20 e i 30 anni hanno deciso di provare altrove, a Siena. Secondo l'associazione Ospiti in Arrivo, la porta della questura per troppi di loro, più di 20 in fila davanti agli uffici, rimane chiusa per settimane. La notte, quindi, dormono in edifici abbandonati, aspettando che venga riconosciuta la loro esistenza. Laura Pagliari, Ospiti in Arrivo. La questura ha dichiarato negli ultimi mesi di aver accolto circa 5-6 domande, quindi è stato garantito l'accesso a 5-6 persone al giorno. L'associazione distribuisce vestiti e sacchi a pelo, ma non bastano. In questi giorni di clima così rigido, i dormitori sono saturi e comunque senza aver fatto la domanda di protezione non vi si può accedere. Ospiti in Arrivo denuncia una violazione del diritto internazionale. Secondo Rete d'Asi, il problema si allarga anche a chi deve rinnovare il permesso di soggiorno. Buongiorno. Annalisa Comuzzi, Rete d'Asi. Sappiamo che da mesi si promette l'inizio dei lavori per l'allargamento dell'ufficio migrazione, per ottenere un locale più adeguato alle necessità che insomma sono presenti da tempo, però non vediamo ancora segnali di una concretizzazione. Udine, Sebastiano Franco, DGR, Friuli Venezia Giulia. 12 e 40 minuti, siamo al tempo, cielo coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 8 gradi e mezzo, a Udine 8, a Gorizia e Pordenone 7 e mezzo, a Tarvisio 3 e mezzo, a Forni di Sopra 2 e Piancavallo 2 gradi, a Tolmezzo 1 grado e mezzo, a Sappada meno 1 grado e mezzo, sul Monte Lussari mezzo grado sopra lo zero, sul Monte Zoncolan meno mezzo grado sotto lo zero, a Lignano e grado 7 gradi. E queste le previsioni dell'ARPA. Nel pomeriggio si prevede dalla costa alle Prealpi cielo da nuvoloso a coperto, sulle Alpi sarà variabile, possibile qualche nebbia. Per domani su pianura, costa e Prealpi cielo da nuvoloso a coperto, sulle Alpi variabile con maggiori schiarite ad alta quota. È durata poco più di mezz'ora nel Tribunale di Trieste la prima udienza sulla vertenza intentata per condotta antisindacale dal sindacato Fesica Confsal nei confronti della cooperativa che gestisce i servizi nei musei civici di Trieste. Prima udienza nella vertenza davanti al giudice del lavoro Paolo Ancora, che oppone il sindacato Fesica Confsal alla cooperativa Cristoforo, che da febbraio del 2025 gestisce i servizi nei musei civici di Trieste. L'organizzazione ha citato in giudizio la società per condotta antisindacale ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Filippo Caputo, Fesica Confsal. Abbiamo fatto ricorso al giudice perché non c'è assolutamente dialogo con questa cooperativa. È una cooperativa sociale onlus e dovrebbe avere una sensibilità maggiore verso i dipendenti. Noi abbiamo fatto richieste semplici, quelle che si fanno sempre sui posti di lavoro, ma da quando hanno cominciato a gestirli le cose sono peggiorate rispetto a quella alla gestione precedente, proprio come servizio. E siccome noi denunciamo questa situazione al Comune di Trieste, perché è responsabile dell'appalto, e loro ci hanno fatto un muro davanti, non convocano il sindacato, non convocano RSA, e non viene convocata, non hanno convocata mai di fronte alle richieste. Secondo Fesica Confsal, la situazione avrebbe avuto fra gli effetti anche un crollo degli iscritti a quello che è storicamente il sindacato più rappresentativo nei musei di Trieste, da oltre 30 a una quindicina. La richiesta al giudice è dunque quella di ordinare la cessazione dell'eventuale comportamento illegittimo. Gianluca Teat, avvocato Fesica Confsal. È stata brevemente discussa la causa, il provvedimento comunque a cognizione sommaria, quindi il giudice potrebbe già decidere allo stato degli atti o potrebbe anche rinviare a una successiva udienza per sentire dei testimoni. Non c'è un provvedimento in questo momento. Si dice soddisfatta dell'udienza la cooperativa, presente con il direttore Luca Covarelli e gli avvocati, che hanno ribadito l'impegno e il buon lavoro portato avanti nella gestione dei servizi museali. E la questione della gestione dei musei civici sarà affrontata anche in quinta commissione il prossimo 23 gennaio, alla presenza del sindacato e della cooperativa. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Le università di Trieste e quella di Zara sono capofila di un progetto di collaborazione tra Italia e Croazia finanziato dall'Unione Europea per la promozione delle piccole e medie imprese nella filiera dell'economia del mare. Sentiamo. Un tuffo dove l'acqua è più blu, o meglio un passo più che un tuffo, come suggerisce il nome, Lip to Blue, del nuovo progetto Interreg Italia-Croazia, cofinanziato dall'Unione Europea con un budget di 6 milioni e 100 mila euro, presentato questa mattina in Università Trieste, che ne è partner principale. Il progetto, della durata di 36 mesi, mira a rafforzare la competitività delle PMI attraverso lo sviluppo di competenze strategiche, l'accesso a servizi qualificati e la costruzione di collaborazioni transfrontaliere nell'ambito della Blue Economy, cioè la filiera dell'economia del mare. Coinvolti nel progetto anche le università di Zara e di Zagabria, la Camera di Commercio croata e Union Camere Veneto, oltre all'Agenzia regionale per il trasferimento tecnologico della Regione Puglia. Lip to Blue è destinato a finanziare voucher disponibili attraverso due bandi, il prossimo autunno e nell'estate del prossimo anno, assegnati a coppie di imprese case, composte da un'azienda italiana e una croata, che insistano su territori affacciati sul mare Adriatico. 18.000 euro a voucher, dunque 36.000 euro a coppia di imprese. Obiettivo? Attivare almeno 81 collaborazioni transfrontaliere tra aziende, promuovendone l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. Il progetto è gratuito e offrirà ovviamente alle PMI partecipanti anche occasioni di conoscersi e di fare rete, incrociandone le esigenze in un'ottica di crescita e di sviluppo. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Introdurre un biglietto all'edizione 2026 del Carnevale di Muggia. L'ipotesi è stata al centro di prefettura a Trieste della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. La nuova misura, è stato rilevato, potrebbe essere decisa nell'ambito della più generale cornice di sicurezza garantita dalle forze di polizia sia in termini di prevenzione che di contrasto ai reati, per assicurare a cittadini e turisti la tutela dell'ordine e della sicurezza, oltre a una gestione più efficace dei flussi di persone e della viabilità. Fondata negli anni 70 dal giovane sacerdote Don Mario Vatta, la comunità di San Martino al Campo di Trieste è impegnata a tutto campo nell'accoglienza di migranti e senza tetto, ma anche nella lotta all'abbandono scolastico. Ne abbiamo parlato questa mattina. Buongiorno, Regione. La quota di ragazzi che lasciano la scuola prima del tempo è in calo da anni, ma la situazione resta comunque molto critica. Lo nota nel suo lavoro di tutti i giorni la comunità di San Martino al Campo di Trieste, che assiste nel reinserimento scolastico tanti adolescenti che si allontanano dal percorso di istruzione. Francesca Parisi, coordinatrice dell'area giovani e minori della comunità. Questo progetto li porta proprio come in una scuola di seconda opportunità, la chiamiamo noi, e li porta alla terza media, con certamente un'esperienza completamente diversa, quindi gruppi molto piccoli, didattica molto molto concreta, molte uscite sul territorio e soprattutto una parte educativa preponderante, quindi lavoriamo tanto sui ragazzi, sulle loro aspettative, sulle loro storie e su quello che vorrebbero fare, sulle potenzialità che hanno e che non vedono, ecco. E poi lavoriamo molto sulla prevenzione, quindi lavoriamo nelle scuole, abbiamo dei doposcuole in 4 scuole medie di Trieste che lavora proprio su questo, evitare che i ragazzi lasciano la scuola. Un contesto familiare complicato, difficoltà di apprendimento e un disagio di tipo psicologico in aumento. Diverse le ragioni che spingono i ragazzi ad abbandonare la scuola. Noi abbiamo ragazzi di 12, 13, 14, 15 anni che hanno esperienze di vita paragonabili a persone di 30, 35, 40 anni, quindi esperienze anche molto pesanti, molto legate all'uso di sostanze, all'uso di alcol, all'uso del fumo, quindi esperienze che non sono adatte. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Il vescovo di Trieste, Monsignor Trevisi, e il rabbino capo Alexander Meloni interverranno oggi all'incontro dal tema «In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra», organizzato dalla diocesi di Trieste in occasione della 37ª giornata per il dialogo tra cattolici ed ebrei. Appuntamento alle 18 all'auditorium del seminario vescovile di via Besenghi. Ed ora lo sport, cominciamo con il calcio. L'Udinese ha annunciato di aver ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno a Las Palmas il diritto alle prestazioni sportive di Iker Bravo, 20 anni, compiuti 2 giorni fa. L'attaccante dell'Under 21 spagnola completerà dunque la stagione in corso in seconda divisione, dopo che nella prima parte aveva trovato pochissimo spazio nelle rotazioni di mister Costa Reuniaric. Il tecnico tedesco lo vedeva chiuso da Davis, Bajo, Busquets e anche dal giovane Gueye. L'Udinese ha chiuso la trattativa nonostante le emergenze in attacco in vista del match casalingo con l'Inter, in cui mancherà anche Zaniolo, squalificato ma anche infortunato. E per il volley femminile, la CDA Talmassons ha guadagnato l'accesso alla finale di Coppa Italia di Serie A2. Alla Tisana, la squadra allenata dal nuovo coach Parazzoli ha battuto 3-0 l'Alta Fratte Padova. In finale affronterà Costa Volpino. Cultura spettacoli. Nell'ambito della 37ª edizione del Trieste Film Festival, che parte domani, si inaugura oggi alle 18 alla Galleria I Contemporari di Via Crispi la mostra Beyond Human Skin, con coabitazioni invisibili, curata da Elena Cantori e che mette al centro l'ultimo progetto dell'artista Martina Martonsky, che invita il pubblico a percepirsi non come individui isolati, ma come parte di una rete di relazioni con tutte le altre forme di vita. Sentiamola. Beyond Human Skin, che è il titolo della mostra, e coabitazioni invisibili, è un progetto audiovisivo che invita a ripensare al corpo umano come un ecosistema condiviso piuttosto che entità a sé stante. Quindi gli interventi di illustrazione e animazione sul materiale video e di fotografia cercano di immaginare forme di vita altre, ultraumane, che attraversano il corpo umano. Quindi le persone si possono aspettare del materiale fotografico con degli interventi di illustrazione e un materiale video audiovisivo. Come ha iniziato la sua ricerca e qual è il suo percorso artistico? Dunque, questo lavoro si ispira a concetti di biologia piuttosto che filosofia ecofemminista e postumana. L'olobionte di Lynn Margulis, questa biologa, che vede ogni essere come un essere composto in cui convivono simbioticamente molteplici organismi, aiuta a contestualizzare bene l'idea che c'è dietro. Concetti ecofemministi e postumani di Donna Haraway della teorica e fisica Barad, che parla di come gli organismi non siano separati e preesistenti, ma che le cose si costituiscono proprio reciprocamente in base al loro agire insieme. Fondamentale, diciamo, è in questo senso la mia formazione. Provengo da un master di studi di genere fatto tra l'Università di Granada in Spagna e di Utrecht in Olanda. Per gli spettacoli, uno dei capolavori più intensi della drammaturgia italiana, una riflessione ancora attualissima sulle dinamiche dell'amore e delle inquietudini umane, è Gli innamorati di Carlo Goldoni, che arriva a Trieste nell'allestimento curato per La Contrada dal regista Roberto Valerio, che ha scelto di ambientare la vicenda in una cornice contemporanea, concentrandosi sulla violenza psicologica e sulla passione bruciante che lega i protagonisti Eugenia e Fulgenzio. Lo spettacolo debutta oggi alle 20:30 al Teatro Bobbio di Trieste, in replica fino a domenica. Secondo appuntamento della rassegna Revolution Green di Pordenone, dedicata quest'anno al tema dei cibi di montagna. Oggi in programma un incontro dal titolo Latte crudo e formaggi di montagna, per parlare di clima, territori e responsabilità condivise. Sul palco il sociologo e documentarista Michele Trentini e la casara e allevatrice Irene Piazza. Alle 18 al ridotto del Teatro Verdi. La rassegna della Cineteca del Friuli, che accompagna la mostra L'età dell'amore, dedicata al cineasta veneziano Gianni da Campo, prosegue stasera con la pellicola con La cronaca familiare di Valerio Zurlini, grande amico di Da Campo. Tratto dall'omonimo romanzo di Vasco Pratolini, si tratta di uno dei film più belli del cinema italiano, Leone d'Oro a Venezia nel 1962. Appuntamento alle 20:30 al Cinema Sociale di Gemona. La Società dei Concerti di Trieste dedica una serata a Cesare Sofianopulo, artista colto e versatile del primo Novecento triestino. In scena la soprano Paola Camponovo e Alfredo Blezzano al pianoforte, con un programma che comprende musiche fra gli altri di Schubert, Webern, Strauss e Poulenc. Alle 18:30 nella Sala Luttazzi del magazzino 26 del Porto Vecchio. Il festival musicale Wunderkammer ospita questa sera Mara Galassi, un vero monumento dell'arpa storica e punto di riferimento mondiale per la prassi esecutiva di questo strumento, che assieme a Paola Erdas al cembalo condurrà il pubblico in un itinerario sonoro che dal nord Europa approda alla Spagna e al sud Italia. Alle 20:30 nella Torre del Lloyd a Trieste. Da Atene 1985 a Nova Gorizia Gorizia 2025, il libro Architecture and City Learning from European Capitals of Culture rappresenta il primo tentativo organico in prospettiva architettonica urbana di imparare dalle capitali europee della cultura, confrontando le loro esperienze. Verrà presentato a Gorizia, a Palazzo de Grazia, alle 18. Poeta, narratore, regista, saggista, intellettuale, polemico e controverso. Pasolini è stato ognuna di queste cose, eppure nessuna riesce a definirlo del tutto. Il saggista Francesco Chianese esplorerà la figura e l'opera del poeta di Casarsa nel suo ultimo libro, presentato a Trieste alle 18 alla libreria Lovat. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettig e Giorgio Beerz, con la collaborazione tecnica di Tommaso Vinoni e di Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. A tutti l'augurio di un buon fine settimana. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.